fate che siete al mare, che siete lì con la Federica Vargi, con tutte queste veline qui. Tutti convocati di Giovanni Capuano. È importante ascoltare la musichetta della Champions League. Posizione regolare, uno contro uno, Brandt riapre, Bellarabi, destro, 3-0. Finisce qui, di fatto finisce qui, col contropiede perfetto del Bayer Leverkusen. 3-0 Bayer. 3-0 Bayer. 3-0 Bayer. Questa è la dimostrazione che probabilmente non siamo ancora pronti per questo livello, ma è altrettanto vero che vogliamo dimostrare. Abbiamo tre obiettivi, abbiamo il campionato, avremo l'Europa League e avremo la Coppa Italia, quindi c'è da riprendersi velocemente. Abbiamo ancora tante cose da fare, abbiamo ancora tanti obiettivi da centrare. È chiaro che stasera abbiamo visto che questo è il calcio vero. Noi ci stiamo preparando per arrivare a questo livello, ancora non ci siamo, ma abbiamo ancora tante cose da dire. Lo sapevamo che era difficile, perché lo dicevano anche le statistiche: 4 volte negli ultimi 5 anni le italiane si erano schiantate sull'ostacolo del preliminare. Però ieri sera per almeno un tempo ci eravamo anche illusi, perché la Lazio soffriva, si vedeva, non riusciva a ripartire, non creava occasioni. Però la partita l'aveva anche un po' incartata, invece poi è finita come avete sentito. 800 24 00 24. Quindi oggi ore 17.45 al sorteggio dei gironi della Champions League ci presentiamo solo con due squadre, la Juventus e la Roma. Poi vedremo, perché può andare benissimo e può andare malissimo, lo spettro delle possibilità è molto ampio. Io saluto Fabrizio Biasin che mi ha raggiunto, ciao Fabrizio. Ciao Giovanni, buon pomeriggio a tutti. Saluto anche Gianni De Biasi, CT dell'Albania. Mister, ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a te e a tutti i radioascoltatori. Quanto vagliamo davvero se la quarta della Bundesliga prende a schiaffi la terza della Serie A? Ma è un interrogativo al quale è difficile dare una risposta, però negli ultimi anni abbiamo visto che, a parte l'anomalia, tra virgolette, nel senso sorprendente della Juve nella passata stagione, poi il resto l'Italia, come mette il naso fuori dai confini, diventano tutti club abbordabili per le altre realtà. Io credo che in Italia stiamo vivendo problemi legati un po' alla crisi, tutti questi aspetti. Quest'anno stiamo lavorando bene dal punto di vista della costruzione dei vari progetti, parlo principalmente per la Juve, per la Roma, che stanno la Juve ringiovanendo dopo gli ultimi anni, e la Roma per quanto riguarda la costruzione di una squadra che, secondo me, oggi come oggi vale la Juve, se non di più, dal punto di vista strettamente tecnico. Però poi ci sono altri fattori che influiscono nella crescita dei vari club. Magari ha ragione Pioli quando dice il calcio vero è questo. Noi siamo abituati, non so cosa intendesse, a praticare forse un altro sport. Altre velocità. Nel gioco, secondo me, è uno degli aspetti che salta al tecnico prima di tutti, quando uno fa un'analisi che va al di là dell'aspetto non solamente... Anche degli episodi che pure ieri ci sono stati, perché diciamo la verità, la Lazio non è stata fortunatissima. Noi italiani, quando dobbiamo spiegare perché siamo stati sconfitti, la mano, non mano, rigore, non rigore, io credo che al di là di tutti, in 90 minuti il Leverkusen abbia corso meglio, più velocemente di quanto lo facesse la Lazio, ha gestito la partita come ha voluto, ha trovato il gol, è vero, alla fine del primo tempo, ma le avvisaglie c'erano nell'aria. Poi è chiaro che nel calcio ci sta tutto, che un piccolo batta una grande ci sta, però nel gioco dei grandi numeri noi dobbiamo cercare di cambiare mentalità se vogliamo avvicinarsi all'Europa che conta. Però mister Biasini, è anche vero che siamo stati un pochino sfortunati nel sorteggio, perché Vabbè, ma non dobbiamo però piangerci addosso, perché Leverkusen, non abbiamo avuto l'Apoel, non abbiamo avuto l'Astana. Assolutamente no. Però dato il fatto che il calcio tedesco, l'Astana non potevamo prenderli, tra le altre cose. Perché però dico per dire, è chiaro che quando uno vede il sorteggio dice Bayern Leverkusen, porco cane, poteva capitare di meglio, però quando sei lì devi giocartela, sei la terza forza del campionato, che una volta da tutti era definito il campionato più bello del mondo. Cioè, diciamo anche che arriviamo da una stagione dove abbiamo recuperato qualcosa nel ranking. Io non sarei completamente negativo, nel senso che è vero, ci sono campionati che adesso sono più probanti rispetto al nostro. Vediamo come va quest'anno. Probabilmente adesso noi siamo un pochino più equilibrati verso l'Europa League, purtroppo. Sì, è casa nostra. Il problema è che noi facciamo la differenza con l'aspetto tattico, perché i nostri allenatori sono talmente bravi nel cercare di appianare quelle differenze che gli organici probabilmente o anche le potenzialità dei vari club mettono in evidenza. Però poi gli allenatori italiani, Stefano per dire è uno tra questi, Stefano Pioli, credo che abbiano cercato di ridurre questo gap, che secondo me invece è un gap legato a aspetti strategici, a gestione del club in maniera completamente diversa. Mister, ma secondo te ha sbagliato qualcosa ieri Pioli? Quando perdi sicuramente noi siamo pronti a dire che ha sbagliato qualcosa, e poi magari analizzando la partita, noi allenatori la giochiamo se la partita va in una certa maniera, se succede questo, se succede quest'altro, e poi consideriamo quelli che sono le qualità dei nostri calciatori, quali sono gli standard in quel momento di preparazione fisica, come stanno più o meno bene, e sono tutte valutazioni che vanno al di là di quello che è l'aspetto puramente del nome di quest'altro. È vero che ieri mancavano due giocatori importantissimi, due giocatori di esperienza anche come Biglia e Close, e credo che da questo punto di vista qui nessuno possa dire, però poi queste diventano poi le giustificazioni del dopo. Sì, si resta sempre alla caccia degli alibi, dove classifichiamo anche il fallo di mano e altre cose. No, anzi, Pioli ieri è stato, credo, assolutamente lucido e onesto. C'è il traffico, io chiedo un minuto di pazienza a Gianni De Biasi, perché poi vi voglio far sentire, ed è il tema che voglio lanciare anche agli amici da casa. 800 24 0024, prenotatevi per intervenire, oppure via sms 349 238 6666. Vi faccio sentire ieri un'analisi fatta da Arrigo Sacchi negli studi di Premium su il calcio italiano, perché non funziona in Europa. Traffico. È sicuro? 100%? Tutti convocati. Tutti convocati. 800 24 0024, Fabrizio Biasin, Gianni De Biasi. Sentite che cosa ha detto ieri Arrigo Sacchi, che era negli studi di Mediaset Premium, dopo l'eliminazione della Lazio, sul calcio italiano arretrato. Noi pensiamo sempre di risolvere tutto attraverso il singolo. Qui il vero problema è che siamo arretrati rispetto al calcio che si sta giocando in Europa. Questa è la realtà, e te lo dice uno che è stato per 4 anni responsabile delle nazionali giovanili e ha fatto più con queste nazionali più di 400 partite. E poi ha detto una cosa sulla Lazio, che non è stata adeguata, partita troppo difensiva, non ha mai dato l'impressione di potersi qualificare, però gli dà un alibi. Una Lazio però che ha una sola scusante: noi stiamo spendendo molto, molti debiti e speriamo di avere qualche risultato. Loro almeno non sprecano. Ecco. Perché dice Arrigo Sacchi che non necessariamente è una buona notizia che le italiane siano tornate a fare mercato spendendo tanto, cioè il gap è culturale più che di investimenti. Ma molto banalmente dipende sempre come spendi i soldi. La Lazio ha speso 30 milioni nelle ultime 2 sessioni di mercato, quindi relativamente poco per costruire un'ottima squadra. Poi è chiaro, per stare al livello delle top serve altro, ma di sicuro non si può fare un processo a Tare. Tare in questo momento è il numero uno tra i direttori sportivi per come sa investire. Mister. Concordo, la Lazio fa fatto secondo me una programmazione negli ultimi anni mirata al ringiovanimento e a cercare di lanciare ragazzi giovani di grande prospettiva. È chiaro che devi pagare un dazio iniziale, però anche Arrigo dice delle cose condivisibili, altre un po' meno. È chiaro che oggigiorno la Lazio deve fare di necessità virtù, e se tu giochi contro squadre che hanno potenzialità economiche, che hanno tecnicamente qualcosa più di te, devi fare una partita diversa. Non è che sempre tu puoi fare la partita nella quale tu gestisci i tempi e il possesso della palla, a volte ti devi adeguare a quella che è un po' la contingenza, e credo che ieri sera la Lazio abbia pagato oltre ogni ragionevole scusante il fatto che mancassero giocatori di prima grandezza a livello internazionale. Ha molti giocatori giovani che potrebbero diventare grandissimi, ma hanno ancora una scarsa esperienza internazionale. Sì, poi va bene la cultura, va bene come si deve costruire, ma gli altri poi investono tanto sul mercato, il gap si crea lì, loro hanno i soldi, fanno il mercato, prendono i campioni. Noi no, secondo me è una buona notizia che quest'estate le italiane abbiano ricominciato a muoversi. Sono d'accordo con te, anche perché da un paio di stagioni a questa parte, vedi Napoli l'anno scorso, c'è questa cosa delle italiane che fanno il preliminare, che decidono di non investire in attesa del preliminare. Questa cosa è un po' preoccupante, forse è il caso di rischiare un po' prima del preliminare e poi beccarsi i milioni dei gironi. Questione di programmazione anche questa. Fammi salutare Gianni De Biasi, che ringrazio, grazie mister. Grazie a voi, un saluto a tutti. Ciao, grazie mister. Gianni De Biasi, 800 24 00 24. Oggi 17:45 c'è il sorteggio, poi adesso proviamo anche a entrare nelle pieghe, perché per paradosso potrebbe andare meglio alla Roma che alla Juventus. Sì, questa cosa delle fasce misteriosa, ieri in redazione da noi abbiamo provato a mettere giù un sorteggio virtuale, è venuta fuori qualunque cosa. Tony dalla provincia di Belluno. Tony, buongiorno. Buongiorno a te. Io volevo proporre una domanda al CT della nazionale albanese, però visto che l'hai salutato. Andiamo avanti lo stesso, dai. Sì, andiamo avanti. Allora, la Lazio ha accantonato Zana, che è un difensore. Sì. E aveva in campo il Mauritius, che non mi pare un gran difensore di quel che ha fatto. Ha sbagliato sul gol del 2-0, sull'espulsione. Sì. Io sinceramente tenderei ad assolverlo, nel senso che mi è parsa esagerata. Però prego, no, fare un confronto, dico, tenerlo anche quell'altro era meglio per la Lazio perché aveva più esperienza e tutto quanto in campo internazionale. Sono scelte che si fa. Io credo che abbia preferito un giocatore che fisicamente poteva essere più esplosivo. C'era da marcare Kiesling, che lo abbiamo visto anche ieri, l'avevamo visto all'andata, è un attaccante difficile da contenere, prima dal punto di vista fisico e poi dal punto di vista tecnico. Poi col senno di poi è evidente che, vista come è andata, probabilmente qualcun altro avrebbe fatto meglio di Maurizio, però questo è il senno di poi. Come spiega, come ha spiegato Gianni De Biasi, uno la formazione da allenatore la deve pensare prima, deve studiare la partita, poi non tutto funziona. Diciamo anche che ieri probabilmente anche la miglior Lazio avrebbe fatto molta fatica, perché davvero si è vista una differenza notevole in tutti i punti del campo. Allora, diciamo del sorteggio che per paradosso potrebbe andare meglio alla Roma che alla Juventus. Juventus che è testa di serie, però da quest'anno c'è la riforma dell'urna, quindi nell'urna numero 1 ci sono tutte le squadre campioni nazionali delle prime 8 nazioni del ranking UEFA, e poi a scalare gli altri, il che significa che abbiamo un'urna 2 più forte rispetto al passato e anche l'urna 3. Allora, la Juventus potrebbe finire nella peggiore delle ipotesi con una delle due Manchester, con il Siviglia e con il Wolfsburg. Sarebbe un girone durissimo, potrebbe anche andare bene, Bayer Leverkusen, Olympiakos, Astana. La Roma ha il 20% di possibilità dall'urna delle teste di serie di pescare lo Zenit per una serie di incroci fra ucraini e russi, e alla fine potrebbe uscire anche un girone non terribile. Saluto Fabrizio Bocca di Repubblica. Ciao Fabrizio. Ciao a tutti. Tanto il segnale più brutto, al di là che poi dobbiamo aspettare le 18 per capire che cosa succede, è che siamo qui a fare questi calcoli. Qualcuno scriveva prima: se c'è da temere il Siviglia e sei la Juventus, partiamo col piede sbagliato. Ma noi siamo questi oggi. Ma sì, purtroppo il calcio italiano oggi è questo. Cioè, la cosa abbastanza deprimente è che pronti via e tu hai già poche squadre, cioè o meno delle altre squadre in Champions League e in Europa League, ne perdi subito e anche abbastanza malamente una in Champions League e una in Europa League, per cui è sempre una corsa a risalire in salita all'inseguimento, quindi è chiaro che poi ti trovi sempre in difficoltà. Ma io credo, guarda, che sui gironi poi tutto sommato, se non fai poi dei grandi disastri, poi te la cavi. Certo, poi puoi fare come la Roma lo scorso anno, che invece il disastro lo combinò, insomma. Quindi io credo che poi, insomma, tutto sommato, sai, arrivare secondi dovrebbe essere poi sempre nelle possibilità di una squadra italiana. Sì, anche se poi il girone si misura sempre dalla terza squadra, perché il ragionamento è molto banale, devi trovarne due più deboli di te, esatto, pazienza se ce n'è una molto più forte. Sì, io penso anche che non sia caso di fasciarsi la testa per l'eliminazione della Lazio, è spiaciuta a tutti, tifavamo, l'esperienza del Napoli dell'anno scorso e anche della Juventus dopo la sconfitta di Istanbul 2 anni fa dice che in realtà la nostra dimensione è l'Europa League. Se fatta seriamente per l'Italia potrebbe anche essere, io lo dissi anche un anno fa e infatti poi mi hanno dato ragione, può anche essere un vantaggio, visto che stiamo facendo i ragionieri per il ranking UEFA. Guardate che un'Europa League fatta con dignità, con serietà, fatta bene, come l'ha fatta il Napoli, il Torino l'anno scorso, alla fine vale più di una Champions in cui ci si misura contro realtà più forti. Oh, hai visto qualche segnale, Fabrizio, che si possa interrompere il dominio delle spagnole? Beh, no, direi di no, anzi è tutto il contrario, ne portano 5, quelle sono squadre che hanno giocato l'Europa League in questi anni come né più né meno come la Champions League, esattamente al contrario dell'Italia. Il Siviglia è una squadra fenomeno, ne portano 5, secondo me l'inversione di rotta in questo momento non la vedo proprio, insomma. Anche se c'è qualche segnale da Manchester, lo United è uscito da questo preliminare facile e non aveva un avversario semplicissimo, perché il Bruges è un avversario che ha una certa esperienza europea. Il City sta per abbattere i 200 milioni di spesa con De Bruyne e sta costruendo una squadra per vincere la Champions. Qualcosa si muove forse? Quello che hanno combinato quest'anno le squadre inglesi sul mercato è qualcosa di incredibile, ma del resto sono squadre che ormai viaggiano su tutt'altri livelli. Lo United ha chiuso adesso una sponsorizzazione una sponsorizzazione da 1 miliardo di euro. È chiaro che c'è un potenziale di acquisto, può fare acquisti per 10 anni per 100 milioni all'anno, quindi rimanere competitivi è difficile. Però, non dimentichiamoci anche il Paris Saint-Germain, perché adesso ha raggiunto una certa esperienza anche in Champions. Se riesce a trattenere, come pare Ibra, si sta consolidando sicuramente. Sì, poi ci sono delle storie meravigliose che abbiamo visto in questi 2 giorni. Quella che a me ha colpito di più è quella di Dumbia, che era un oggetto misterioso a Roma, eppur si muove, è stato rispedito ovviamente in prestito, perché poi questo capita, al CSKA Mosca, 2 partite 3 gol contro lo Sporting Lisbona. Chi ha sbagliato? È vero, ma sai, devo dire, insomma, queste partite qua sono sempre un po', queste qua d'estate, così, anche quelle di Champions League sono sempre un po' strane, un po' particolari. Insomma, guarda anche il Bilbao dello scorso anno, no? Cioè, non era una squadra fenomenale, e però fece eliminò il Napoli e poi sparì letteralmente il Torino. Esatto, e poi non è che dopo fece grandissime cose, insomma. Quindi insomma, secondo me questi verdetti di adesso sono sempre un po' così abbastanza. Però diciamo una cosa su Dumbia, in realtà il ragazzo è un buon giocatore, un bel attaccante, il problema è stata la tempistica. Sabatini l'ha preso quando sembrava più un paracarro che un giocatore, era fermo. Adesso invece è tornato a essere un attaccante. Sì, che ci dovrebbe dare anche qualche suggerimento su come trattare gli ultimi giorni di mercato, che sono proprio i giorni dei giocatori che verranno svenduti, è il giorno dei esodati. Puoi fare l'affare, ma puoi prendere clamorosamente la fregatura negli ultimi giorni. Sì, attenzione ai Condor. Io credo che qualche top forse è stata già presa, ma insomma vorrei riservarmela ancora, ma insomma credo fai un nome, facci un nome, un nome. Tra i, ma non lo so, hai detto, guarda, forse nei difensori dell'Inter già vorrei capire. No, non toccare Murillo e Miranda, dai, alla prima hanno fatto vedere di essere due difensori di livello, non basta una partita, sì, però, sì, però insomma aspettiamo, insomma, vorrei vederlo bene, insomma. Quindi una delle due M è, sì, è una toppa. Ma è uno scommesso, forse vado a giocarla alla Sniper. Grazie Fabrizio. ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie, ciao. Fabrizio Bocca di Repubblica. 800 24 00 24, il sorteggio di Europa League domani. Il Napoli sarà in fascia 1, Fiorentina e Lazio in fascia 2. Abbiamo speranze lì di poter pescare bene a prescindere, e poi se stasera si suicida qualcuna delle grandi magari recuperiamo qualche testa di serie in più. Sai però qual è il vero dramma dell'Europa League? È la sua formula, perché quest'inverno, questo autunno-inverno passato nei gironi in città sconosciute e più fa un po' passare la voglia, però è anche vero che se vuoi vincerla devi fare, però anche queste cose. Fa passare la voglia solo a noi, perché gli, sì, altri è vero. La affrontano con serietà. Ma io mi immagino già l'incubo sul calendario, perché adesso giocheremo praticamente con mezza Serie A il giovedì e tutte quante vorranno giocare a lunedì in posticipo. Ci sarà l'affollamento. Ci sarà lo spezzatino dello spezzatino. Non abbiamo ancora parlato di Balotelli. Lo facciamo dopo la borsa. Torniamo subito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Si ricomincia. Tutti convocati. 800 24 00 24. Franco da Milano. Franco. Sì, buongiorno. Eccoci. Sono Franco, sono un milanista e volevo spezzare una lancia in favore del Balotelli. Milanista felice. Sono un milanista, sì, abbastanza felice. Visto la nostra rosa, io credo che Balotelli ci possa veramente far comodo. Però ho una condizione. Mi riprendo un po' all'intervento che ha fatto ieri un giornalista. Non si può, alla vostra trasmissione, non si può snaturare Balotelli. Balotelli è un cavallo pazzo, ha questa energia. Per cui dagli delle regole, dei decalogi di comportamento, io lo trovo assurdo. Non capisco come mai nel mondo del calcio c'è un sacco di psicanalisti, gente, psicologi, non hanno ancora capito questa cosa. Balotelli deve essere lasciato alla sua creatività, ma che è una creatività molto probabilmente dirompente, che non segue regole. Mi ricorda un po' Riva ai tempi del Cagliari. Scopigno gli faceva fare quello che voleva, però riusciva a contenerlo. Sì, il problema è che poi per fare i calciatori professionisti, soprattutto oggi in un calcio molto fisico, ci vuole anche l'altra parte, quella della vita dell'atleta. Cioè non è solo un problema di come ti muovi in campo o come non ti muovi. Poi lo sentiremo Balotelli sulla questione di muoversi o non muoversi. Il problema è che Balotelli ha buttato via la prima metà della sua carriera più per atteggiamenti fuori dal campo che dentro, cioè una certa instabilità. Guarda, sul codice di comportamento io posso anche essere d'accordo con l'ascoltatore, mi sembra una cosa eccessiva, però un paio di regole a questo ragazzo vanno date. Oggi abbiamo letto una bellissima intervista dove lui dice che ha appreso, ha capito la lezione, e lo vedremo. Dopodiché c'è un ragionamento da fare. Un conto è il comportamento, altra cosa è l'atteggiamento in campo, perché pochi si focalizzano sul fatto che nel corso degli ultimi 5 anni Balotelli, invece di migliorare, è peggiorato tecnicamente. Sì, ne parlavamo ieri con Crosetti. Il miglior Balotelli alla fine è stato il primo, quello ragazzino che era stato buttato in prima squadra nell'Inter. Michele dalla provincia di Milano. Grazie per la convocazione. Grazie a te. Io volevo intervenire su quanto detto da Sacchi. Siccome quando parla Sacchi si fa sempre delle ironie, anche voi poco fa l'avete fatto, vi volevo ricordare. Guarda che non abbiamo fatto ironie, no, l'abbiamo proposto, giuriamo. Avete fatto, nel senso, avete fatto dell'ironia, perché secondo me non si crede poi profondamente a quello che dice lui. Sì, nel senso Michele, che... Michele, abbiamo detto che ogni tanto concordiamo e ogni tanto no, non è ironia, è un giudizio, no, okay, però prego, okay. Perché ironia può anche essere offensivo, però, e qui non l'abbiamo fatta, a te. Però io vi vorrei ricordare che quello che ha detto lui ieri è 20 anni che ce lo ripete e noi non riusciamo a capirlo. Non riusciamo a capirlo assolutamente, perché la mentalità in questo paese non cambia, si va avanti sempre così, coi se, coi ma. E non va bene perché tu hai ragione Michele, questa è la parte che noi condividiamo, ridere, noi condividiamo, poi gli altri il passo in avanti l'hanno fatto anche investendo tanto sul mercato, e quindi dire che è una cattiva notizia di per sé che i club italiani investano sul mercato a me non pare giusto, non pare una lettura completa. Vogliamo anche dire che per Sacchi era un po' più semplice, perché nel periodo del Sacchi milanista il Milan era la squadra che investiva di più al mondo. Quindi ha portato la mentalità, ma c'era dietro anche altro. Fammi salutare Stefano Ragno. Ciao Stefano. Ciao, buona giornata a tutti. Ti posso far sentire il nuovo Balotelli? Sentiamolo. Ti faccio sentire il nuovo Balotelli. Ringrazio Sinisa per la fiducia, e poi oltre a Sinisa c'è il presidente che mi ha rivoluto e non me l'aspettavo, perché sai, un po' di tempo fa non era proprio quello che diceva, e anche Galliani ovviamente li ringrazio, ma non li ringrazio sotto il livello tecnico del giocatore Balotelli che torna a Milan, ma che si fidano e diciamo danno una chance all'uomo. Io so che il Mario che è tornato è un Mario uomo, sotto il livello tecnico penso che mi conoscete, quindi in passato ho avuto diciamo una carriera da ragazzo, adesso comincio la mia carriera da uomo, tutto qua, non è ultima scelta. Stefano, ti convince la conversione di Balotelli? No, ma sicuramente sono belle parole che devono essere poi accompagnate a quello che è poi il professionista calciatore, normale che non si discute per la qualità tecnica, no? È normale che nel calcio moderno adesso purtroppo non basta solo essere tecnico, ma bisogna essere a parte uomo, e per essere uomo devi soprattutto rispettare prima te stesso per poi rispettare gli altri, e fino a questo momento purtroppo non ha fatto vedere questo Balotelli, però certamente per le parole sembra che forse abbia capito, anche perché dove ovunque è andato purtroppo in questo momento non ha mai giocato, e questo non penso sia sempre per colpa di qualche cosa, di qualche donato, è che certamente tutti quanti vedono un qualcosa in Balotelli che assolutamente deve cambiare. Adesso per fortuna sua ha avuto ancora una volta ragione, nel senso che la società è una società, l'ha preso, che la società non è una qualunque, ma il Milan, che possa dare a lui comunque la possibilità di riprovarci, perché penso che questa sia veramente l'ultima chance per trovare spazio in una squadra che conta, no? Che conta vuol dire che possa dare a lui anche la possibilità poi di vestire anche la maglia azzurra, perché l'ho detto, come qualità tecniche sicuramente ha tutto per sfondare, fisiche e tecniche, però purtroppo manca quella morale dove devi dare sicuramente qualcosina in più, ancora di più adesso, perché torna dopo aver fallito nuovamente in un'altra società. Sì, Conte ha disperatamente bisogno di un attaccante di peso da portare agli europei, ma tu l'avresti ripreso al Milan da allenatore, ma anche da compagno di spogliatoio, perché poi è evidente che Balotelli è una figura ingombrante con il suo passato che si porta in spogliatoio. È normale che potrebbe essere scomodo perché per l'atteggiamento che noi conosciamo il Balotelli con un atteggiamento non positivo, è normale che se, l'ho detto, questa è l'ultima chance, se non l'ha capita adesso, penso che debba cambiare totalmente il suo atteggiamento, se è possibile, poi non, sicuramente non lo farà apposta lui, però è così. Però deve sforzarsi a cambiare atteggiamento per rimanere in un gruppo e essere soprattutto costruttivo e non distruttivo. Stefano, non credi che al di là del suo atteggiamento fuori dal campo, io non so se cambierà, ma mi interessa anche relativamente, lui debba invece cambiare l'atteggiamento in campo, perché al momento va a una marcia in meno rispetto a tutti i suoi colleghi? Ma io penso che sia una conseguenza, quando non riesci a comportarti fuori è diventa anche difficile comportarti dentro, no? Anche perché devi registrare un po' la testa, no? Il capire realmente, forse è stato troppo semplice per lui diventare quello che è diventato, mm-hmm. E perciò questa forse è stata la sua pecca, perché ha detto con quel poco sforzo che ho fatto ho ottenuto il massimo, ma se vuoi invece competere con certi giocatori che per le qualità tecniche e fisiche lui potrebbe competere, devi dare invece devi risposte sul campo che a oggi non ha mai dato con continuità in nessuna squadra che ha vestito la maglia. Ecco, l'Inghilterra l'ha penalizzato proprio questo, la difficoltà ad adeguarsi all'intensità di gioco della Premier. Aspettate che però ve lo faccio sentire su questo tema di come lui si pone in campo con quell'atteggiamento che spesso sembra indolente. Sentite cosa ha risposto. So che non sono un giocatore come Suarez che corre per 11, lo so. Però non penso neanche di essere un giocatore che sta fermo. È successo, lo so, però non penso di essere un giocatore che sta sempre fermo. Voi lo vedete trequartista o alla fine metterà pressione, porterà via il posto a Luis Adriano? A me sembra molto Fabrizio. Complicato immaginare un Milan che almeno inizialmente possa permettersi le due punte più Balotelli. Soprattutto per giocare da trequartista devi essere un giocatore a 360 gradi, uno che dà una mano al centrocampo e prova a fare gol. Mi sembra in questo momento molto difficile. Stefano? Ma a prescindere, cioè dalle parole che ha detto, capisce, no? Perché dicendo io non corro come Suarez, però lui avrebbe tutte le capacità per farlo, no? Vero. E questo per un giocatore che ha quella forza fisica e quella tecnica dovrebbe vivere di prepotenza e se vuole diventare, fare il salto di qualità, la prima cosa che deve fare è mettersi allenarsi come si deve durante la settimana, perché non ti arriva la forza, non ti arriva per grazia ricevuta, ma durante gli allenamenti devi dare 120% per poter dare una mano dove te sei più debole in questo momento, e lui senza palla purtroppo non è un giocatore che ti dà una mano, invece deve farlo, perché non sempre riesce a fare la differenza con la palla, perciò molte volte si fa la differenza invece senza palla, vuol dire che aiutare la squadra quando è in difficoltà per poi magari creare gli spazi e muoversi un po' meglio in fase offensiva. Sì, tra l'altro inizio carriera addirittura si parlava di lui come di un potenziale laterale destro, io ricordo. All'Inter qualche partita l'ha fatta. Anche in primavera. E anche bene. Veniva visto con un ruolo diverso. Vi chiedo un minuto di pazienza, la chiedo anche a te, a Stefano Eragno, poi chiudiamo il discorso su Balotelli, però c'è il traffico. È come se avessi passato l'estate a sognarmi la Narti o la Canalis e mi ritrovo la signorina Silvani. Tutti convocati. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Tutti convocati. Io spero di aiutare il Milan e di aiutare la nazionale, questo è quello che mi sono promesso, anche soprattutto la nazionale, che è una cosa a cui io tengo veramente tanto, ci ho sempre tenuto, ed è anche diciamo un regalo che vorrei fare a mio padre, che lui ci ha sempre tenuto la nazionale e so che stava un po' male sapendo che non ero più nel giro della nazionale, ecco, quindi mi farebbe piacere tornarci, sì. Io penso, lo dico da qualche mese, che la nazionale di Conte non possa prescindere dal recupero di Balotelli, forse anche di Pepito Rossi se fosse possibile, però oggi la nostra è una nazionale che può anche essere mediamente competitiva nel reparto difensivo e a centrocampo e poi naufraga in attacco. Se pensiamo che un anno fa la coppia titolare era quella composta da Immobile e Zaza forse andrà a fare il prestito in Premier League se va bene, altrimenti farà panchina alla Juve. Immobile ha completamente fallito nel Borussia Dortmund. Non si può stare senza Balotelli. Deve aspettarlo Conte, Stefano? Certamente, però uno se lo deve guadagnare. L'abbiamo detto e ripetuto. Come giocatore, come caratteristiche fisiche, tecniche, non morali, in questo momento naturalmente, lui è un giocatore che potrebbe sì fare la differenza, però deve totalmente cambiare la mentalità e anche il modo di giocare, se vuole dare una mano a lui in primis, per poi di conseguenza alla nazionale. Certamente che Conte non penso sia stupido, lo sa benissimo delle qualità del giocatore e delle potenzialità soprattutto. È normale che deve dimostrarlo, no? Cioè, non può essere un cattivo esempio per gli altri, deve essere un ottimo esempio e soprattutto ancora di più adesso che gli si dà una chance importante, deve far vedere che è realmente cambiato, se no siamo qui sempre a parlare del solito Balotelli. Sì, io sono convinto però che Conte ce l'abbia scritto nella lista dei desideri per quest'inverno, ne sono abbastanza convinto. Sono d'accordo con te, Conte non è fesso, ma proprio perché non è fesso non si lascia abbindolare da quattro parole, ha bisogno di fatti concreti e quelli te li può dare solo il campo. Non dimentichiamoci che Conte per un gesto di Quagliarella di qualche anno fa mise l'attaccante in tribuna per un mese, per cui diciamo non è certo uno che si lascia fregare dalle parole. Sì, però un conto è fare l'allenatore della Juventus o comunque di un club, e un conto è fare il selezionatore, e adesso mancano 9 mesi, 10 mesi a un appuntamento importante come l'europeo. Grazie Stefano Ragno. Ciao, grazie a voi. Ciao, buona giornata. Ciao Stefano. Ci sono Roberto dalla provincia di Campobasso, Carmine da Benevento, Massimo da Brindisi. Prima però diamo due notizie di mercato, perché mancano 4 giorni finalmente alla fine del mercato estivo. Per fortuna. Questa mattina nuovo incontro a Milano tra l'Inter e l'agente di Lavezzi, anche se si aspetta sempre la risposta di Perisic in questo tormentone che io credo sia destinato a non finire mai. E poi c'è anche la mela, ricordiamoci che c'è il piano C che si chiama la mela, e per forza di cose da qui a lunedì qualcosa accadrà. Su Perisic non dico che abbiamo perso le speranze, ma bisogna semplicemente aspettare quello che ci dicono dalla Germania. I tedeschi temporeggiano, l'Inter aspetta. Per Lavezzi è una questione banalmente economica, bisogna ancora trovare l'intesa sull'ingaggio del giocatore, e poi bisogna trattare con lo sceicco, e trattare con lo sceicco è difficilissimo. Questa mattina Luca Teidelli, collega della Gazzetta dello Sport che segue l'Inter, su Twitter ha scritto: tra i 6 litiganti per l'attacco dell'Inter sento che godrà il 7°, ma il nome non si può fare se no salta pure lui. Questa mattina i nomi che aveva fatto sempre Luca Teidelli sulla Gazzetta dello Sport erano Perisic, Lavezzi, Lamela, Borini, Perotti e Ljajic. E allora io ti dico che magari evidentemente il 7° sarà? Non lo so, io ti dico che magari sarà 8°, ma non ti dico il nome, così magari ci indovino anch'io. No, sempre dalla Germania invece, oggi notizia che su Draxler potrebbe esserci il Wolfsburg, che è pieno di soldi perché sta per vendere De Bruyne al Manchester City. Problema per la Juventus. È un problema, sì, perché ricordiamo che la Juventus è una squadra che secondo me ha fatto un gran mercato, ma si è dimenticata la ciliegina, che non è neanche la ciliegina, anzi è la fettona di torta che si aspetta Allegri da un mese, quel famoso trequartista che serve per dare ad Allegri la rosa che sognava. Io credo che alla fine ce la farà, probabilmente svenandosi, e per arrivare a Draxler a questo punto si parla di 30 e non meno, e bisogna darglieli. Sì, tifosi della Juve perplessi perché Llorente è stato mandato gratis al Siviglia, non è stata fatta plusvalenza, anzi c'è una piccola minusvalenza. Io però vi dico attenzione, perché libera all'interno della potenza di fuoco di cui ha sempre parlato Agnelli nella gestione della Juventus uno spazio che copre quasi interamente un potenziale colpo da 30 milioni di euro. Quindi alla fine Marotta potrebbe aver fatto la mossa giusta. E non dimentichiamoci che l'eliminazione della Lazio porta un po' di soldini in più, sì, sia qualche Roma milioncino che... meno rispetto al passato, perché sono cambiate un po' le regole, ma qualcosa arriva. Roberto dalla provincia di Campobasso. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Niente, io sono un tifoso del Milan e volevo soffermarmi sul fatto di Balotelli. Cioè, io quello che vi chiedo, Balotelli è davvero un campione? Perché io sinceramente finora non ho dimostrato grandi cose. Cioè, un fuoriclasse solo per lo stipendio. Momento sicuramente è un fuoriclasse solo per lo stipendio, però aveva fatto vedere di poterlo anche essere sul campo. Guarda, era un potenziale fuoriclasse ai tempi dell'Inter, quando era tutto istinto e faceva delle cose meravigliose. Il problema è che non l'ha coltivato questo istinto. Roberto. Poi ha fatto anche poco, sinceramente, che dopo l'Inter fine. Cioè, voglio dire, non so, forse un fuoriclasse sì, si valuta anche... Dopo l'Inter ha pur sempre vinto una Premier League. Ci ha portato in finale. Non ci sono eserciti di giocatori che hanno vinto la Premier League o che hanno fatto un europeo come quello di Balotelli nel 2012. Poi da lì in poi si è perso completamente. Prego Roberto per chiudere. comunque volevo anche dire, e poi anche da tifoso del Milan, che sono anche un grande tifoso del Milan, cioè ma noi avevamo bisogno di Balotelli o più di un centrale o di un altro difensore, perché sinceramente anche l'acquisto che abbiamo fatto del difensore della Roma ha fatto, cioè, non mi convince fino in fondo sinceramente, lo trovo ancora troppo giovane. Sì, e comunque andrà aspettato anche solo perché è stato pagato 25 milioni di euro. Però hai ragione quando dici che il Milan ha necessità di arrivare a un altro centrocampista. Io credo che Galliani, al di là delle parole, stia lavorando per trovarlo questo centrocampista. Poi vai a capire se sarà Soriano, Witzel o un altro. Però sì, entro lunedì lo deve prendere. Mi dicono né Soriano né Witzel, credo, ma anch'io un altro. E comunque ripeto, fortunatamente mancano 4 giorni. Carmine da Benevento, Carmine. Salve, buongiorno. Buongiorno a te. Io volevo fare un intervento in favore del tanto bistrattato calcio italiano. No? Siamo qui. Visto che si parlava di coppe europee. Insomma, l'anno scorso nella fase finale delle coppe tra Europa League e Champions abbiamo portato 3 squadre. La Juve, contro ogni pronostico, è arrivata in finale, se l'è giocata con il Barcellona, che abbiamo visto che squadra è. La Lazio nella partita dei preliminari all'andata ci aveva fatto quasi sperare di passare il turno, vedendo poi cosa fanno le inglesi, i francesi, in particolare col PSG che spendono tantissimi soldi, non mi sembra che siamo così rovinati anche a livello europeo. Sì, noi non siamo, secondo me, adesso la Juventus l'anno scorso è stata probabilmente un'eccezione e forse lo sarà anche quest'anno, non siamo a livello in Champions League. L'Europa League oggi è il nostro palcoscenico, finalmente da un anno abbiamo cominciato a prenderla seriamente e lì ci si possono togliere anche delle soddisfazioni. In più stiamo investendo, lo dicevamo prima, per provare a stare con le grandissime. È chiaro che nel momento in cui un giocatore come De Bruyne costa 70 milioni noi dobbiamo fare un passo indietro, però io sono d'accordo con Carmine, non vediamo tutto nero, il calcio italiano bene o male si sta risollevando in qualche maniera. Massimo da Brindisi. Salve, se permettetemi una critica. Allora, io mi fa specie la costanza che avete, voi giornalisti italiani in generale, nel difendere ad oltranza uno come Balotelli, che ha dimostrato pochissimo nella sua carriera, prende una marea di soldi, viene sempre considerato un fuoriclasse e ogni volta che cambia squadre si dice la solita frase: questa è l'ultima occasione per Balotelli. Si ritorna rinato, a parlare, sì. C'ha grandi qualità, se si aggiusta la testa, cioè si dice sempre la stessa cosa. Ma scusatemi, ma i giornalisti inglesi sono dei fessi rispetto a quelli italiani? No, ma a me sembra che anche i giornalisti italiani critichino Balotelli e ne scrivano male in maniera adeguata. E poi è un ragazzo di 25 anni, potenzialmente forte, questo lo abbiamo detto, e io credo che se un club come il Milan decide di nuovo di investirci, di concedergli una possibilità, possiamo anche sederci ad aspettare e vedere come va. Comunque sai qual è la verità? Che i giornalisti italiani, e mi ci metto anch'io, sono molto contenti che sia tornato Balotelli, perché ci dà da lavorare tutti i giorni. Luciano della provincia di Fermo. Sì, buonasera. Buonasera. Volevo spendere 2 righe anche io su Balotelli. Fortunatamente fa il lavoro più bello, che si chiama gioco calcio, Balotelli. Sì. Sinceramente vederlo in campo mette un'angoscia terribile, senza un sorriso, un'esultanza, guarda, è pietoso. Sì, però lui dice che quello era il vecchio Balotelli, quello nuovo è cambiato. Ci aspettiamo grandi sorrisi quest'anno da sì, Balotelli. Però anche adesso vedendolo, anche quei spezzoni in allenamento, quei pochi flash, mette malinconia, guarda, sinceramente sono giuventino. Però mi piace il calcio e vederlo in campo mette malinconia. Un ragazzino che non esulta giocando a calcio, essere pagato milioni mette malinconia. Sì, dovrebbe ridere dalla mattina quando si sveglia. In realtà a me sembra che queste prime giornate di Balotelli a Milano, Balotelli sia molto concentrato a convincerci anche con la postura del corpo di essere cambiato, di essere serio, e non credo sia solo per il codice militare che ha firmato, ma vedremo. Ci fermiamo qui, io ringrazio Fabrizio Biasin, grazie Giovanni, grazie a voi qui. Ringrazio Giovanni Melchiori che oggi in redazione ci ha dato una mano, ringrazio Gianmarco Ferronato. L'appuntamento con tutti i convocati è per domani dopo il GR delle 14, quando ci sarà anche Sua Maestà Pierluigi Pardo. Grazie. Ciao. Di tutti, di tutto, e una buona estate a tutti.